Buon pomeriggio e benvenuto ai microfoni di Radio Città Fucico a Davide Fabbri, il presidente di Keep On Live e responsabile del Diagonal di Forlì. Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito intanto. Allora Davide, raccontaci un attimo che cos'è Keep On Live. Keep On Live è un'associazione di categoria che riunisce sostanzialmente centinaia di live club italiani. Siamo attorno ai 300 come censiti, attualmente in attività siamo attorno al centinaio, qualcosa di più, e ovviamente non sono questi gli anni in cui è un buon momento fare il censimento dei live club per la situazione che conosciamo, ma questa associazione si occupa di tenerli insieme e di portare avanti le istanze che appunto rappresentano un po' il centro delle faccende di questi locali. C'è una domanda in effetti che nell'ultimo anno abbiamo fatto spesso ai musicisti, ossia cosa si provava a tornare sul palco. Dopo 2 anni di pandemia sembra che le luci a questo punto si stiano per spegnere di nuovo sui live. Qual è il clima che in questo momento c'è tra gli addetti ai lavori? Dici bene, nel senso che c'è un po' un clima complesso, nel senso che si pensava che dopo 2 stagioni di chiusura o comunque di limitazioni avessimo, come dire, girato la boa. Purtroppo non è così. L'esperienza di ritornare sul palco l'abbiamo vista anche qui, quando quest'estate abbiamo riprovato a mettere in piedi una programmazione che è poi terminata a dicembre, anche di strano, non ha più quegli automatismi belli e immediati che aveva prima, e oggi fare musica dal vivo ha altri significati, altre necessità, altri costi, riflette molto l'umore di quello che c'è sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista organizzativo, e anche il pubblico tendenzialmente, un po' con la narrativa dei luoghi affollati eccetera, l'idea di assemblarsi in uno spazio definito per assistere a uno spettacolo è un'idea che adesso non è più così sana e salutare come lo era, almeno per quello che viene raccontato. Quindi è un po', insomma, una fase in cui vale la pena farsi qualche domanda in più e cercare di impostare delle condizioni migliori per quando la musica tornerà ad essere quella che conoscevamo. Quindi c'è un clima abbastanza teso, diciamo. Immagino che sia proprio per questo motivo che nasce la lettera scritta da Keep On Live insieme ad Asso Musica e Arci, e indirizzata al governo dopo il decreto festività. Quali sono le richieste di questa lettera? Qual è la situazione che avete presentato? Sì. Hai fatto bene a citarla, è una delle azioni che Keep On fa non in solitaria, ma collegandosi in rete con altri enti che rappresentano settori della musica dal vivo. È una lettera di attenzione, è una lettera dove si sfrutta questo momento, cui appunto c'è poco da fare, ma forse è un buon momento per pensare le cose. Si fa presente che questo settore, quando c'è da raccontare che l'Italia è un paese culla di grandi patrimoni artistici, sia museali che performati eccetera, siamo tutti d'accordo. Quando invece occorre fare presente la situazione proprio pratica dove è costretto a lavorare chi si occupa di spettacolo dal vivo, le cose sono un po' più sfumate. La questione ad esempio degli ammortizzatori sociali e della cassa integrazione, gli indennizzi per le chiusure, una questione chiara che riguarda il fatto che i live club e gli spazi di spettacolo dal vivo sono dei muri, cioè hanno dei muri, hanno delle pareti, sono degli oggetti, sono degli immobili che hanno costi fissi, permanenti, e che rappresentano, come dire, un po' il lato inamovibile della filiera musicale. Quindi anche se un artista non va in tour, l'affitto di quel locale verrà in qualche modo pagato da qualcheduno. Questo è il momento in cui può valere la pena portare all'attenzione di chi è tenuto a legiferare quali sono le caratteristiche precise dei live club. È il momento di fare un pochettino di chiarezza, insomma. La questione non è tanto aprire o chiudere un locale, aprire o chiudere un cinema. La questione è: sappiamo di che cosa stiamo parlando quando parliamo di live club? Questa è un po' la missione per i prossimi mesi futuri che Keep On si vuole portare come obiettivo principale, cioè il riconoscimento. Noi crediamo e sosteniamo questo questa cosa. Immagino che il riconoscimento non sia una questione singola o appunto, come dicevi, di emergenzialità, ma un problema ben più strutturale. Proprio così, potrebbe essere invece una cosa veramente fighissima se in questo periodo buio, dove appunto anche gli artisti hanno perso un po' quella confidenza col palco, eccetera, se alla fine di tutto questo percorso qualcosa si fosse portato a casa. Che cosa? La consapevolezza di questa rete, di luoghi sostanzialmente, di presidi, di socialità buona, di divertimento, e le caratteristiche che questi luoghi hanno, in modo da avere un sistema normativo, un albo, un elenco che li mette tutti insieme nella loro eterogeneità, perché questo è importante, mettere insieme un ingresso gratuito, magari Arci che fa concerti magari anche ingresso gratuito, con invece un live club magari molto più grande, che ha tutte altre caratteristiche e numeri nella gestione economica, ma che fa parte della stessa mappa di luoghi deputati alla tutela, allo sviluppo della musica dal vivo. È questa, secondo noi, la sfida. La prima cosa da fare è riconoscere la portata di questi luoghi e la differenza che hanno rispetto ad altri luoghi parimenti degni di occuparsi di intrattenimento, come le discoteche o come altre situazioni più improvvisate, da invece un sistema strutturato che va normato e va tutelato per quello che è alla stregua delle sale cinematografiche de sé o dei teatri. Noi possiamo semplicemente sperare che questa vostra richiesta venga accolta veramente con interesse e voglia di migliorare le cose. Il settore culturale smetta di essere considerato sacrificabile, per cui ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni e auguro che il vostro progetto vada in porto, perché se ne sente molto il bisogno. Ti ringrazio e ce lo auguriamo noi proprio, ci auguriamo che questi mesi di inizio anno siano assolutamente quelli proficui per impostare seriamente il discorso di un riconoscimento dell'intero settore, di chi si occupa di intrattenimento e musica e spettacolo dal vivo, nel nostro specifico per chi fornisce tetti, palchi, impianti a questa filiera dell'industria musicale, insomma. Quindi grazie mille per l'opportunità e avanti tutta.